I pagliacci tutti matti inseguono i conigli e i gatti. L'orso viene corteggiato e il leone è disteso in mezzo al prato. C'è chi abbraccia la capretta e il nonno racconta una barzelletta. Il piccolo Bob intonerà e tutti insieme si canterà. Il circo è di nuovo qua, tra-la-la, tra-la-la. Tutti saltano qua e là, tra-la-la-la-la. C'è chi ride, c'è chi balla, tra-la-la, tra-la-la. C'è un cammello nella stalla, tra-la-la-la-la. I bimbi giocano col pappagallo, tutto rosso, verde e giallo. La giraffa col suo lungo collo vede ballare il toro e il pollo. La mucca si fa accarezzare e il gallo si mette a ballare. Il maiale il ritmo dà e tutti insieme si canterà. Il circo è di nuovo qua, tra-la-la, tra-la-la.